Diamo inizio al nostro incontro. Salutiamo l'avvocato Giuseppe Strangio, Sua Eccellenza il Monsignor Mondello, Vescovo di Reggio Calabria, tutte le autorità presenti e tutti voi che siete con noi questa sera per trattare un tema di grande interesse e di grande attualità: cristianesimo e islamismo. Un tema, se vogliamo, che dal punto di vista mediatico è stato presentato in lungo e largo. Magari molto ne sappiamo, ma è sempre troppo poco ciò che conosciamo. E abbiamo l'onore di avere con noi il professor Alberto Torresani, che è docente universitario della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, nel corso che riguarda appunto l'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Apollinare, una università conosciuta e stimata in tutto il mondo, che ha una rosa di tante, diciamo, scelte accademiche, sia per sacerdoti che per laici. E il professor Alberto Torresani, oltre che docente universitario, è anche un stimato storico. Ha lavorato per tanti anni in un liceo di Milano e possiamo dire che da sempre si è un pochino lanciato a conoscere, a snodare, se mi permette il professore di usare un termine che rimanda a un suo testo, i nodi della storia. Un testo molto famoso che ha avuto un grande successo dal punto di vista scolastico e siamo qui proprio per ascoltare questo, diciamo, tema, affrontare questo tema insieme. Giustamente poi se c'è necessità e esigenza si possono fare domande inerenti all'argomento che è veramente interessante. Ben arrivato, professore. Della cortese presentazione, e la prima idea che io tento di dire è che il problema islamico, almeno per una dozzina d'anni, sarà molto impegnativo. Mi è stato chiesto prima di accennare ai possibili sviluppi futuri. Io confesso che sono uno storico e lo storico è rivolto unicamente al passato. Non so che cosa avverrà in futuro e questo sicuramente obbligherà la Chiesa, che è consapevole di questa sfida, a approntare tutti i mezzi per intavolare un dialogo che in passato ha sempre avuto molti motivi di conflittualità, per cui Islam e cristianesimo si sono spesso scontrati. La seconda idea che mi piacerebbe comunicare è che Maometto è vissuto tra il 570 e il 632. Dunque, quando il fenomeno della religione ebraica e della religione cristiana era da molti secoli estremamente diffuso. E in Arabia, nelle zone raggiunte dalla prima espansione islamica, c'erano molti cristiani, c'erano molti ebrei. Per esempio a Medina, su 10 tribù, 3 erano di ebrei. Nell'Arabia meridionale esistevano cristiani. Cristiani provenienti dall'Eritrea e quindi cristiani appartenenti a delle forme eretiche di cristianesimo. E Maometto ha per molti anni fatto l'unico lavoro che era possibile nell'Arabia di quegli anni ed era il cameriere. I camerieri nelle caravanserragli avevano occasione di incontrarsi con molti appartenenti alle altre due religioni, ebbe una conoscenza abbastanza approfondita del Pentateuco, ma non dei libri sapienziali, dei libri storici della Bibbia. Conobbe alcuni cristiani, essenzialmente monofisiti o nestoriani. Adesso tenteremo poi di dire in breve in che consiste l'eresia monofisita e l'eresia nestoriana, per comprendere, insomma, che l'incontro di Maometto con queste realtà ha avuto degli aspetti, per così dire, problematici. devo dire subito che Maometto non leggeva, non scriveva, che ha adottato una lingua che gli islamisti dicono pressoché perfetta, con delle sonorità tipiche della lingua araba, che gli arabi non hanno mai amato tradurre il Corano, hanno sempre preferito insegnare l'arabo ai neofiti, precisamente perché la traduzione risulta estremamente complessa, difficile, è una prosa lirica, quindi c'è qualche cosa che sfugge ai traduttori anche molto bravi. La nascita e l'espansione dell'Islam hanno qualche cosa di straordinario. Appena 2 anni dopo la morte di Maometto c'è la conquista di Damasco e della Siria. 4 anni dopo, nel 638, la conquista di Gerusalemme. Gerusalemme è rimasta come città islamica dal 638 fino al 1948, quando gli israeliani hanno proclamato il nuovo Stato di Israele. Quindi Gerusalemme è città santa per gli islamici, la terza dopo la Mecca e dopo Medina, c'è Gerusalemme. Secondo la tradizione islamica, da Gerusalemme, cavalcando una cammella bianca, il profeta sarebbe stato assunto in paradiso. Dunque Gerusalemme è qualche cosa di profondamente importante anche per gli islamici. La cupola della roccia, la moschea, il cui progetto venne attuato dal secondo califfo Omar, costruita da maestranze bizantine, peraltro, la cupola della roccia e il santuario che ha un'importanza enorme. E l'idea di Shamir di compiere la famosa passeggiata sulla spianata aveva il significato di una sfida, tant'è che lì è nata la seconda intifada, precisamente perché è stata una forma di provocazione. Ecco, la espansione prosegue con l'Egitto, che viene definitivamente conquistato nel 642, e poi è una forma di cavalcata straordinaria lungo tutta l'Africa settentrionale. Nel 692 definitivamente viene occupata Cartagine. Io desidero ricordare che queste erano le terre in cui il cristianesimo si era radicato più profondamente, al tempo di Sant'Agostino a Ippona, ma tutta nell'Africa c'erano oltre 150 diocesi. In Siria c'erano altrettante diocesi cristiane, e dunque gli islamici si sono collocati precisamente in Siria, Egitto, Palestina, Asia Minore, che erano le terre più profondamente cristianizzate. La cosa deve in qualche modo farci riflettere. È avvenuto una volta, potrebbe avvenire una seconda volta, quindi occorre semplicemente ricordare: noi ci troviamo di fronte a un fenomeno, quello di un profetismo armato che in passato ha saputo esercitare precisamente una pressione militare, conquistando un mondo di straordinaria estensione. Intorno al 711 Tariq, un luogotenente di Musa, passa lo stretto di Gibilterra, che da allora si chiama così, Gebel el Tariq, la montagna di Tariq, e nel giro di meno di 6 anni è arrivato Tariq fino a Toledo, e tutta la Spagna, meno l'angolo di nord-ovest, è stato occupato dagli islamici, essenzialmente berberi africani. Poi passarono in Francia e ci furono delle incursioni che arrivarono fino al centro della Francia. perdonate, io cito qualche data, non è certo per affliggervi, ma per ricordare che in pochi anni si è arrivati fino al cuore della Francia, a Tours, a Poitiers. A Poitiers gli arabi hanno sicuramente compiuto un errore grossolano, ed è stato quello di attaccare la cavalleria pesante franca. Bisogna ricordare che sono uomini del deserto che avevano immaginato una tattica militare che era quella non dello scontro frontale, erano eserciti di cavalleria leggera che dovevano tagliare tutte le possibilità di rifornimento e agli eserciti avversari, e dunque farli cadere per fame o per altri motivi, insomma, che dovevano rendere l'attacco del nemico, infrangerlo. A Poitiers la iattanza probabilmente del comandante ha fatto sì che ci fosse uno scontro con la cavalleria pesante dei franchi, e a Poitiers 4.000 cavalieri islamici rimasero sul terreno, e da allora in Occidente è cominciato un riflusso. Però in Spagna sicuramente gli arabi sono rimasti fino a un anno che tutti voi ricorderete, perché è quello della scoperta dell'America. L'ultimo emirato arabo in Spagna, quello di Granada, è caduto il 2 gennaio del 1492. In Oriente c'era la realtà dell'impero bizantino, e l'impero bizantino che ha sopportato per secoli la forza, l'espansionismo degli islamici, e la battaglia vera e propria venne intorno a Costantinopoli tra il 717 e il 718. In quella occasione la città rimane salda per circa un secolo, resiste, perdonate, un anno all'assedio, e alla fine una tempesta distrugge anche la flotta araba, e l'impero bizantino ebbe un altro secolo per reagire all'espansionismo islamico. In Oriente l'Iraq, l'Iran, la parte dell'India e fino all'Indonesia vennero conquistati nel giro di un altro secolo. Intorno all'anno 800, così per capirci, quando c'è il più famoso califfi della tradizione islamica, Harun al-Rashid, contemporaneo di Carlo Magno, con cui ci furono anche degli scambi di doni, ecco, quello è il momento più luminoso della tradizione araba, della tradizione islamica. Questo dobbiamo ricordarlo, perché in Occidente non c'era nulla di paragonabile al mondo islamico. Il mondo islamico era un mondo di città, era un mondo in cui era venuto l'incontro, anche per merito dei cristiani, devo dire, con la cultura greca, e gli islamici avevano appreso la tecnica del discorso rigoroso attraverso la logica aristotelica, e leggevano e applicavano le grandi opere di medicina, certamente Galeno, certamente gli altri grandi medici dell'antichità, e avevano ospedali che erano dei modelli. In Occidente non avevamo nulla di tutto questo. Avevamo la tradizione, così forse un poco brutale, del cavaliere che risolve con la spada tutti i propri problemi. Ecco, bisogna ricordarlo, perché fino al XII-XIII secolo, in un certo senso, la cultura islamica era una cultura di alto livello. Poi certamente sono avvenuti alcuni problemi che tenteremo anche di dire, se ne avremo la possibilità. E a questo punto, sempre per lo scrupolo storico, ci sono tre periodi che vanno tenuti distinti, perché così vogliono gli islamici. Il primo periodo, dalla morte di Maometto fino al 661, è il tempo dei quattro califfi elettivi. Poi in queste elezioni ci furono guerre civili e gli islamici, quando trovano un problema di tipo politico, sanno esprimere le autorità, chiamiamole così, religiose, che non sono mai separate da quelle politiche, una fatwa. Fatwa significa una legge religiosa: piuttosto che la guerra civile, meglio l'assassinio anche dei congiunti del sultano, per esempio. E quindi venne deciso intorno al 661, quando venne ucciso il quarto califfo, che era Ali, che era cugino e genero di Maometto, e venne deciso di stabilire una discendenza ereditaria, e quindi è il periodo degli Omayyadi. Significa che una famiglia stabilisce al proprio interno, una famiglia della Mecca e una famiglia araba con capitale Damasco, stabilisce il principio dinastico che in precedenza non esisteva nel mondo islamico, che aveva raggiunto soltanto il livello tribale, quindi c'erano dei capi tribù, non c'erano né sovrani né re e così via. La grandezza di Maometto è che ha trasferito la conflittualità che era interna tra le tribù islamiche, l'ha trasferita all'esterno. Quindi la guerra santa, il jihad, perché jihad è una parola maschile, quindi bisogna usarla al maschile, il jihad, che noi chiamiamo guerra santa, in realtà è un allarme che l'islamico getta a tutti i propri fedeli, affermando c'è qualcheduno che attenta l'Islam, attenta la nostra fede. Io supplico tutti i presenti a riflettere su un fatto. Noi, per forza di cose, giudichiamo le realtà di altre religioni a partire dalla nostra. Per esempio, la moschea, noi potremmo pensare, è un edificio sacro, analogo alla chiesa. Perdonate, la moschea è più simile a un centro sociale. E il venerdì colui che regge la moschea tiene un discorso, ma il discorso è essenzialmente fare luce sulla possibilità che l'Islam sia aggredito dai non credenti. Nei paesi cosiddetti moderati, per esempio in Egitto, il discorso della moschea del venerdì deve essere portato, comunicato alle autorità di polizia qualche giorno prima del venerdì, perché le autorità civili potrebbero eccepire su qualche cosa del contenuto del discorso. Nel mondo islamico non esiste nulla di simile ai sacramenti cristiani, nulla di simile al battesimo. Per diventare islamico basta essere presentato da due credenti islamici a un responsabile della moschea, e non c'è alcun rito, non c'è un battesimo, non c'è una circoncisione, insomma non c'è un qualche cosa che si assimili ai sacramenti. I mullah, gli ayatollah, le altre autorità non sono equivalenti a sacerdoti, sono dei conoscitori della legge coranica, e la legge coranica è di una straordinaria semplicità. La teologia coranica la potremmo risolvere in pochi minuti, e credo che la forza dell'Islam risieda precisamente in questa semplicità straordinaria. Noi viviamo in un mondo che sta banalizzando tutto, e tutto viene trasferito al livello della comunicazione e tutto diventa favola, come Biancaneve e Sette Nani, anche i problemi teologici. Io credo che se un allarme si deve fare è che i credenti cristiani sono terribilmente ignoranti delle cose della loro fede, e l'ignoranza non è mai

Così l'umanità in Cristo è stata totalmente assorbita dalla divinità. Nella Siria orientale c'erano invece gruppi di cristiani nestoriani, i quali non avevano affrontato correttamente il problema della unità nell'unica persona di Cristo, della divinità e dell'umanità, e ritenevano che l'umanità e la divinità fossero accidentalmente unite per il corso della vita di Cristo, ma che poi si sarebbero separate. Il paragone era come un cavallo e un cavaliere che formano l'unità fin tanto che il cavaliere decide di cavalcare, dopodiché viene abbandonato l'animale nella stalla e il cavaliere è se stesso. E sono questi, come dire, i cristiani eretici che entrano in contatto con Maometto e quindi col mondo islamico. E devo dire che il problema teologico cristiano ha sollevato delle discussioni anche politiche molto forti, e che l'imperatore bizantino doveva tenere insieme delle province come l'Egitto, come la Siria, oltre che Costantinopoli e il resto dell'impero, in modo problematico. E quindi c'era un ordine di seguire il cristianesimo, così come veniva predicato dal patriarca di Costantinopoli, e i fedeli ortodossi venivano chiamati melchiti, noi diremmo imperiali, mentre il cristianesimo popolare, copto in Egitto e aramaico in Siria, in qualche modo era passato in maggioranza alla eterodossia, significa all'eresia. E queste cose spiegano perché la conquista del quello che poi è diventato il nucleo dell'Islam, Siria, Egitto, Asia Minore e Palestina, è stato così rapido. In certo senso i cristiani eretici dicevano: meglio il turbante islamico che il potere imperiale di Costantinopoli. E per di più, faccio questo accenno perché ha un rilievo moderno, la tassa per i fedeli abbiamo detto che era del 3%, ma quando arrivavano i musulmani nell'antico impero bizantino avveniva immediatamente il dimezzamento delle tasse, perché l'impero bizantino era con molti problemi, compreso quello della corruzione interna, per cui le tasse erano altissime, arrivavano al 20%, che allora era considerato spaventoso. Adesso è stato, mi sembra, abbondantemente superato. Potremmo dire che il mondo, dopo il 750, il mondo islamico ha conosciuto un cambio di dinastia. La capitale da Damasco viene trasferita a Baghdad e inizia il periodo classico, il periodo più glorioso, è quello in cui l'islamismo entra in un contatto, che debbo dire fecondo, e quindi non posso escludere che possa avvenire anche in futuro, e con la cultura greca. Perché? Perché nel mondo persiano è stato un grandissimo impero fin dal VI secolo avanti Cristo, al tempo di Ciro il Grande, poi gli Achemenidi e poi la conquista certamente di Alessandro Magno, ma sicuramente il centro culturale più importante allora, perdonate, come adesso, è la Persia, è l'Iran, perché c'è una tradizione estremamente forte. E comincia il periodo classico, quello più glorioso, che termina alcuni secoli dopo, se volete l'anno preciso, nel 1258, quando i mongoli, i discendenti di Gengis Khan, arrivano a Baghdad distruggono l'impero, il grande impero abbaside, e instaurano un regime abbastanza possibilista. 1258, i viaggi dei Polo veneziani incominciano proprio in quell'epoca. È un momento di particolare interesse. I mongoli, ancora pagani, sono incerti di quale direzione religiosa prendere. Ebbero contatti anche col cristianesimo e vennero inviati dei francescani, esempio Giovanni da Pian dei Carpini, poi altri, inviati fino nella capitale, il Karakorum, dei mongoli. E anche i due fratelli col nipote o figlio di uno dei due, Polo, che arrivano fino a Pechino, girano per tutta la Cina, perché in quel momento l'impero mongolo comprende un territorio sconfinato che va dall'estremo oriente, dalla Cina, fino praticamente ai confini con l'Ungheria. Ecco, questo è un momento che è durato però una generazione o due e poi si è richiuso, perché la conversione dei mongoli all'islamismo ha fatto sì che l'Asia si sia richiusa su se stessa. Noi potremmo ricordare che c'è un momento di scontro con l'Islam e il cristianesimo, ma dobbiamo ammettere che fino a questo momento c'è stato un, per così dire, straripamento durato alcuni secoli, dal VII al X secolo, degli islamici nei confronti dell'Occidente, nei confronti poco dopo il 1000, con l'XI secolo, l'Occidente per la prima volta dopo secoli recupera la propria capacità di politica. Io vi supplico di ricordare, la parola ammiraglio è una parola araba, è accolta in tutte le lingue neolatine, ciò significa che il Mediterraneo è stato un mare islamico per almeno un millennio. E soltanto dopo che le repubbliche marinare, certamente di Venezia, di Genova, di Amalfi, di Pisa, poterono allestire delle flotte e cominciano a rendere pan per focaccia. Nell'Islam c'è sempre stato il jihad. Io credo che le famose crociate siano state la imitazione, la replica, per così dire, dalla parte cristiana contro le aggressioni islamiche, che quindi è qualche cosa di suggerito dagli avversari. Ma il fatto nuovo è che nell'XI secolo compaiono i turchi. I turchi non sono stati mai, per così dire, conquistati dagli islamici, hanno deciso la propria conversione all'islamismo autonoma e si sono presentati nelle steppe tra l'Aral e il Caspio, in quella zona lì di passaggio, una specie di corridoio. Sono entrati in Armenia, che è una specie di corridoio per tutti i conquistatori che vengono dall'est, e nel 1071 è avvenuta la battaglia di Manzikert, che ritengo sia una di quelle importanti perché segnano così durevolmente le conseguenze successive. A Manzikert l'imperatore romano IV Diogene viene sconfitto e fatto prigioniero e perde alcune decine di migliaia di uomini. E l'indebolimento, il primo e forse il più drammatico, dell'impero bizantino. La conseguenza fu la perdita di tutta l'Anatolia orientale. L'Anatolia orientale era importante per i bizantini perché era il luogo di reclutamento dei loro migliori soldati. Sono montagne, altopiani intorno a 1000 metri, e che quindi soldati eccellenti. E a partire da quel momento Bisanzio è con le spalle al muro. Alcune comitive di pellegrini vengono massacrati, perché gli ultimi venuti, i neofiti, sono sempre quelli che sono intolleranti, mentre gli arabi accettavano i pellegrini perché i pellegrini erano dei clienti che pagavano i viveri che consumavano. E allora parte da Alessio Comneno, l'imperatore, l'aiuto e la richiesta di aiuto in Occidente. Il Papa Urbano II, intorno al 1095, coglie, presenta in due concili provinciali a Piacenza, Clermont-Ferrand, nella Francia, presenta l'ideale di riconquistare il sepolcro di Cristo che è caduto in mano agli infedeli. E avviene qualche cosa che nessuno si attendeva: la partenza per l'Oriente di alcune migliaia di cavalieri, perdonate, rozzi, sapevano menare le mani e niente altro. Non hanno capito nulla della politica del vicino Oriente. Bisognava andare con un progetto politico che prevedesse l'alleanza con alcuni musulmani contro altri musulmani. Per esempio la difesa dei musulmani arabi nei confronti dei musulmani turchi. Bisognava non combattere contro Bisanzio, anche se era separata dal 1054 dallo scisma con la Chiesa di Roma. Ma non hanno fatto nulla di tutto questo, perché era superiore alle possibilità così ideative in quel momento. Ecco perché le crociate, che un tempo, ripeto, fino a 50 anni fa, erano considerate un momento glorioso per l'Occidente, che dopo secoli di oppressione reagisce e porta la guerra nel vicino Oriente, da circa 50 anni il giudizio è sommamente negativo. Io chiedo di fare qualche precisazione. La politica ha dei momenti diversi. Ci fu un santo che capì che la crociata non era il modo migliore per convertire gli islamici, e fu San Francesco. Nel 1219, per alcuni mesi, andò ad Amietta, sul delta del Nilo, e lì, con la tipica creatività che aveva quest'uomo di eccezionale importanza, chiede di essere ricevuto dal sultano Al-Kamil, e gli parla con il coraggio tipico di Francesco del cristianesimo, e Al-Kamil gli obietta che se si convertirà il giorno stesso verrà ucciso dai suoi, perché questa è la norma. E allora Francesco, che si rende conto e che gli promette che due suoi frati, quando sarà in punto di morte, verranno a impartirgli il battesimo. Naturalmente queste cose sono presenti solo in fonti francescane, e quindi gli storici non le prendono come prova scientifica dell'avvenuto colloquio. Ma sta di fatto che lì certamente c'è stato un incontro. Nel secolo successivo, intorno al 1347, fu un papa, Clemente Urbano V, che istituì la custodia della Terra Santa e la fidò ai francescani. Dal 1347 i francescani sono sempre stati presenti in Terra Santa, però senza armi, senza rapporti politici con l'Occidente, e sono andati lì a proprie spese, perché in questi sei secoli circa ci sono stati 8.000 martiri francescani. Quindi ci si sta, ma a proprio rischio e pericolo. Perché? Perché c'è questa ambivalenza nel mondo islamico, e vale a dire che la violenza la si può invocare in ogni momento. Ecco, io credo che dunque potremmo a questo punto, perché il tempo sta scadendo, che bisogna ricordare semplicemente che il mondo islamico ha conosciuto nei turchi, il califfato turco, quella che è una grande potenza. E nel 1453 i turchi hanno conquistato Costantinopoli, avevano già occupato tutti i Balcani, erano risaliti lungo il Danubio, e quindi Belgrado, Budapest, erano arrivati fino praticamente alle porte di Vienna. Vienna venne assediata una prima volta nel 1529, al tempo di Carlo V. Quindi i musulmani erano nel cuore dell'Europa, non è Europa orientale, è quell'Europa centrale. E dunque il problema: perché ci sono stati per tanto tempo? ma perché la politica europea è sempre stata basata sullo scontro di egemonia, essenzialmente, così per semplificare, tra Francia e Germania, perdonate, anche la unità europea dal 1950 in poi è stata invocata per risolvere il problema franco-tedesco, non è stato certamente per altri motivi. Dunque, per la Francia, per secoli, fu un obiettivo politico avere ottimi rapporti di alleanza con i turchi, perché così si poteva contrapporre alla Germania il doppio fronte, il Reno e il Danubio. Quindi la politica è molto semplice nelle sue linee generali, e se i turchi hanno avuto, per esempio, la regina Elisabetta, prima naturalmente, artiglierie, ma i maestri artificieri che facevano le polveri di lancio e poi sapevano trapanare i pani di bronzo per dare il giusto calibro all'artiglieria, erano artiglieri tedeschi, che quindi l'impero turco ha sempre avuto coloro che fornivano i mezzi per fare la guerra all'Occidente, e la guerra è stata pressoché continua. Ci fu l'episodio senza dubbio straordinario di Lepanto, allorquando i turchi sottraggono Cipro ai veneziani e i veneziani si trovano nella situazione di poter accedere a un'alleanza con la Spagna e con il Papa Pio V, e viene allestita quella famosa flotta che a Lepanto riesce a sconfiggere la flotta turca. E quella fu una vittoria celebratissima in passato, perché sembrava di avere resistito alla marea islamica. Ma l'ultimo assedio di Vienna, quello del 1683, e se voi andrete a Vienna troverete che gli austriaci vi raccontano le vicende del Kahlenberg, del passaggio del Danubio, del grande Turkenschanzplatz, la grande mostra del campo turco con 50.000 tende, ve lo mostrano come se fosse ieri. E a partire dal fallito assedio di Vienna 1683 inizia la profonda decadenza dell'impero turco, che diventa somma nel secolo XIX, quando l'impero turco veniva curato amputando delle parti, quindi vengono esclusi un poco alla volta dai Balcani, poi però sempre difesi dalle potenze occidentali che avevano interesse di impedire ai russi di occupare i due famosi stretti. Ecco la politica che a volte gli islamici chiamano questa politica cristiana, perché non fanno tante distinzioni. Tutti gli occidentali vengono chiamati cristiani, ma non sanno che la politica occidentale si è sviluppata spesso contro o comunque al di fuori della dimensione religiosa, che quindi non è corretto imputare le guerre che so io portate contro i turchi dagli occidentali, perché avevano ben altro per la mente che questi tipi di problemi. Osama Bin Laden, quando dice che gli islamici, 1 miliardo di persone, non hanno una grande potenza di riferimento, non hanno l'importanza che loro compete, non fa altro che rimpiangere la fine di quell'impero ottomano turco che rappresentava una grande, grandissima potenza, peraltro decaduta per tanti motivi, fino al 1918, fino alla prima guerra mondiale. E che cosa bisogna aggiungere? Che la sorte ha messo sotto i piedi degli islamici il 70% delle riserve mondiali di petrolio, e che ancora per 30 anni avranno un assoluto potenza. Ogni giorno mi dicono che entrano nella sola Arabia Saudita delle somme favolose, in miliardi di dollari, e l'Arabia Saudita può finanziare tutti i mullah, tutte così le autorità in qualche modo islamiche di tutto il mondo, e deve finanziare tutti i terroristi, perché altrimenti portano gli attentati all'interno dell'Arabia, ma sono delle somme favolose a disposizione così anche di coloro che non hanno le idee chiare. E nessun governo islamico può prendere atto, può prendere di petto il terrorismo, possono cercare di limitarlo, come avviene in alcuni paesi islamici cosiddetti moderati, per esempio la Turchia, per esempio l'Egitto, per esempio il Marocco, per esempio la Tunisia, che nel panorama islamico presentano alcune. Quindi non bisogna essere pessimisti, non sono tutti terroristi, ci mancherebbe altro, ma se anche soltanto l'uno per mille o l'uno per diecimila è più che sufficiente. Insomma, la storia degli attentati agli aeroporti, agli atleti di Monaco e così via, agli aeroporti sono talmente numerosi da segnare una. Il conflitto arabo-israeliano è sempre al calor rosso, è sempre sui giornali, perché è incessante. Io credo che per terminare bisogna ricordare che nella dottrina cattolica sono avvenuti alcuni fatti di notevole importanza. L'ultimo dei documenti conciliari, quello Dignitatis Humanae, parla della libertà come libertà religiosa, evidentemente, come la prima condizione da esigere. Noi tutti dobbiamo lottare per la libertà religiosa di tutte le religioni. Non possiamo con la violenza comprimere alcuna di queste religioni, ma ciò non significa che tutte le religioni sono uguali, perché questo sarebbe un assurdo. Sicuramente noi abbiamo avuto una tradizione all'inizio del XX secolo, la fenomenologia applicata alle scienze religiose ci ha fatto capire che qualunque manifestazione religiosa è degna di rispetto. Perché? Perché in un certo modo tutte le religioni ammettono che ci sia un principio, Dio, Padre, che è padre di tutti gli uomini. E ciascuno però capisce quel che può capire, capisce quello che gli permette la propria cultura, la propria intelligenza, la propria sensibilità, con un dovere per tutti di esplorare e quindi studiare quale possa essere la religione che in qualche modo Dio ha voluto e che in qualche modo è stata trasmessa attraverso gli ebrei nell'Antico Testamento, attraverso i cristiani nel Nuovo Testamento, e all'interno delle divisioni tra cristiani io credo che nessuno di noi possa dubitare che la Chiesa Cattolica abbia conservato con maggiore completezza il messaggio di Cristo. Quindi libertà religiosa. Questo documento viene pubblicato nel 1965, quando c'era ancora al potere il marxismo, che pensava a se stesso come una filosofia della storia. L'ateismo scientifico era il punto d'arrivo del pensiero occidentale, quindi di tutta la filosofia. È caduto il marxismo, e che quindi è caduto anche questa pretesa di rappresentare il futuro dell'Occidente e così via. Un secondo documento è quello pubblicato dall'allora segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, Dominus Iesus, e in cui si afferma che mediatore unico tra Dio e gli uomini è Cristo, che dunque né l'induismo, né il buddismo, né il confucianesimo sono mediatori tra Dio Padre e gli uomini, senza che nessuno voglia diminuire l'importanza, la bellezza del buddismo o del confucianesimo. Noi sappiamo che il mondo orientale dell'estremo oriente, India e Cina, sta radunando tutta l'industria mondiale. Sappiamo benissimo che nei prossimi 12 anni gran parte della produzione verrà rilocata in quei paesi. Quei paesi accettano tutto dell'Occidente, accettano la scienza, la biologia, la matematica, la fisica, accettano persino le tecniche di vendita, quindi marketing e così via, rifiutano dell'Occidente la filosofia, rifiutano la religione, dicendo che sono autosufficienti e ignorano che è stato precisamente il cristianesimo che ha fatto sì che in Occidente ci fosse la tecnica, ci fosse la scienza, che è diventata patrimonio comune dell'umanità. Il Papa si sta sforzando di ricordare che è avvenuto in Occidente un triplice tentativo, lui usa evidentemente un neologismo tedesco, una diselenizzazione. Noi potremmo dire, insomma, che la traduzione di Entellenisierung è quindi è un momento di allontanamento dalla razionalità. Ma la razionalità greca, io sto parlando a un pubblico e ritengo che voi siate per il 25% greci, perché questa è stata la realtà della Calabria, della Sicilia in passato. Io supplico tutti i presenti, i più giovani evidentemente, a non dimenticare mai le loro radici greche. La filosofia greca è il più grande dono fatto all'umanità, ma nella misura in cui la filosofia greca è vera, appartiene a tutti gli uomini, non è più occidente, non è più qualche cosa di limitato. E nell'Occidente si è sempre sviluppato quello che è il discorso razionale. Il discorso razionale significa che ci sono disputanti, ciascuno dei quali ha una tesi, ma quando avviene la contraddizione, significa quando uno dei disputanti cade in contraddizione, sapendo che di due proposizioni se sono contraddittorie, se una è vera l'altra è necessariamente falsa, e che quindi convinti sul piano razionale bisognerebbe abbandonare, non fare quello che avviene purtroppo che nella discussione politica. Io sono scandalizzato, non c'è più il tentativo razionale, ciascuno fa lo spot televisivo, significa io la penso così, perché non lo pensate anche voi? Ma no, bisogna offrire la base razionale e convincere, e se io cado in contraddizione devo accettare la conclusione del mio interlocutore. Il Papa sta facendo questo sforzo gigantesco, e nel discorso di Regensburg del 12 settembre del, e con questo finiamo, del 2006, a Regensburg il Papa ha detto una cosa di straordinaria importanza. Innanzitutto ha ricordato un imperatore bizantino, il terzultimo, che nel 1392 a Brusa in Asia Minore ebbe un contraddittorio con un dotto persiano islamico, e in quella discussione viene riportato nel discorso di Regensburg l'affermazione lì non è razionale che Dio ordini a un uomo di uccidere un altro uomo in nome suo, e non c'è nessuna possibilità di affermare la razionalità di una cosa del genere. E poi il Papa ha rincarato la dose dicendo che la Sura seconda, il versetto 256, diceva nessuna costrizione nelle cose di fede, quindi Maometto ha colto questo aspetto della tolleranza religiosa. Tolleranza che è un termine equivoco, e io lo impiego con molto dispiacere. Bisogna che ci sia una conoscenza tale da poter discutere sul valore di verità della fede.

Noi molte volte facciamo il paragone tra la nostra, i nostri cristiani, le nostre comunità cristiane e coloro che appartengono ad altre religioni. Ma facciamo un paragone nel quale la parte cattolica, cristiana, diciamo, non viene presa nella sua realtà, ma in alcune manifestazioni negative. E questo mi pare che sia ingiusto e inaccettabile. Se io paragono l'Islam col cristianesimo e dico l'Islam c'ha la preghiera, molto, i nostri non pregano, io devo dire, ma i nostri pregano, ci sono di alcuni cristiani che non fanno il loro dovere, ma non perché sono cristiani, ma perché sono poco cristiani. Allora il paragone dovrebbe essere fatto, e giustamente il professore ha citato San Francesco, ma non è stato San Francesco soltanto che ha chiesto di andare in Oriente, di parlare col sultano, ma ci sono stati tanti cristiani che volevano l'incontro, il dialogo serio, tanti cristiani che in questi 2000 anni della storia del cristianesimo hanno veramente mostrato con la loro vita, prendiamo i santi che ne abbiamo a migliaia, con la loro vita hanno mostrato veramente che cosa è il cristianesimo. E il paragone allora va fatto fra questa comunità cristiana e quella islamica, perché è chiaro che davanti a un musulmano che prega 5 volte al giorno, però come giustamente diceva il professore è una preghiera esterna, magari internamente non risponde il suo interno a quello che dice esternamente, questo per noi si chiamerebbe ipocrisia, per il cristianesimo non sarebbe accettabile. Però, ma se paragoniamo quello con un cristiano che prega, credo che tra le due cose sarebbe preferibile quello che prega col cuore, con la mente e con tutto se stesso, che non quello che prega soltanto con la bocca, con la parola, con l'esterno. Quindi questi problemi sarebbe bene conoscerli, e sarebbe anche bene affrontare il problema del dialogo con l'Islam. Oggi la Chiesa, sono stati citati 3 documenti dal professore, non ho sentito però citato quello conciliare, mi aspettavo, Nostra Aetate, che è il documento del Concilio Vaticano II che presenta proprio i rapporti della Chiesa Cattolica con le religioni non cristiane. E dopo aver parlato della religione ebraica, Nostra Aetate parla della religione islamica con tanto rispetto, con tanta convinzione, e ne ammira l'amore verso l'unico Dio, Allah. E questo è da tenere presente. Se ci sono state nei tempi passati lotte tra l'uno e l'altro, è storicamente da chiarire, non basta scagliarsi contro le crociate, anch'io non mi sento di approvarle così sic et simpliciter, però se si spiega che cosa sono le crociate, se si spiega che poi sono andate oltre a quello che era l'idea fondamentale, perché poi è chiaro sono diventati dei guerrieri che hanno fatto magari degli eccidi cristianamente deplorevoli, non accettabili, ma fondamentalmente il principio della crociata era un voler per amore di Cristo liberare, non fare guerra, liberare quelle zone, quelle terre che ingiustamente erano state prese dalle forze islamiche. Quindi dico, questo dialogo oggi è necessario, non si può andare avanti sconoscendosi né lottandosi, bisogna andare avanti attraverso il dialogo sereno, proficuo, perché abbiamo tanti motivi di incontro con l'Islam. Quello che ha citato il professore, quello sulla Madonna, è bellissimo, ma anche il rispetto che hanno per Gesù Cristo, pur non riconoscendolo Dio, ma lo riconoscono il più grande profeta dopo Maometto. Quindi tutto questo ci porta ad un sereno dialogo che possa essere veramente fruttuoso, anche se non abbiamo, come è stato detto, gli stessi livelli. Noi abbiamo una gerarchia che può rappresentare la Chiesa, loro non hanno nessuno che possa rappresentare tutto l'Islam. Difatti abbiamo fatto un incontro qui a Reggio l'anno scorso in cui un musulmano che era relatore, c'era un cattolico, un musulmano, un protestante, il musulmano riconosceva, diceva chiaramente di non riconoscersi in tanti, specialmente in quel tale che alla televisione si presenta come il rappresentante dell'Islam, dice: io non mi sento rappresentato da quel tale, anzi ricuso che lui possa dirsi un vero islamista e rappresentante dell'Islam. Grazie. Grazie Eminenza. E speriamo veramente che questo, questa possibilità sia un incontro e non uno scontro tra due forti religioni monoteiste che hanno una cultura, un modo di vita e anche una verità, se vogliamo, diversa, in qualche modo. Certo, un po' difficile, come diceva l'eccellenza signor Vescovo, perché Monsignor Vescovo Mondello, perché di fatto non c'è, è acefala in un certo senso la religione musulmana, quindi la difficoltà risiede in questo. Però ce lo auguriamo, perché sicuramente come cattolici, ma come esseri umani, vogliamo arrivare a questa ricerca della verità. Se ci sono domande, pregherei. Prego. Vorrei che il professor Torresani ci aiutasse a capire una cosa che ha accennato alla fine del suo intervento. Io vorrei evidenziare qual è il meccanismo con il quale oggi l'Occidente affronta il dialogo con l'islamismo, e vorrei capire perché questo modo di dialogare non sembra che funzioni tanto bene, no? Cioè l'idea che è diffusa è che esista la cultura islamica che porta avanti certe sue verità, no? E esiste la cultura cristiana che ha le sue verità, quindi la verità diventa un discorso culturale, no? Per cui può anche essere che una cultura di 300 anni, tra 300 anni una nostra cultura cristiana più evoluta venga a sostenere che, per esempio, essere onesti non va bene, cioè la cultura è cambiata, quindi oggi è meglio essere disonesti piuttosto che onesti. E che quindi, siccome è la cultura che porta avanti delle verità, e esistono due culture, quindi due verità, il problema è un problema di tolleranza, che è una parola che si traduce nel fatto di parlare d'altro, cioè non parliamo delle verità comuni, delle verità che esprime il cristianesimo, la cultura cristiana, o delle verità che invece sostiene la cultura islamica. Per tolleranza, anche se sono contraddittorie, non ne parliamo, parliamo di altro. Per cui noi andiamo a dialogare con gli islamici parlando essenzialmente di un'altra cosa, di solito di democrazia. Cioè la sostanza, ciò che noi abbiamo portare agli islamici è la democrazia, senza legare questa idea ad alcuna radice culturale, no? Ora voglio dire, questo schema che apparentemente è semplice, loro dicono le cose loro, noi diciamo le cose nostre, sopportiamoci e parliamo di altro, no? Che tra l'altro è sostenuto anche da filosofi dell'Occidente, però non sembra che funzioni bene, soprattutto dal lato degli islamici, no? Non sembrano accettarlo tanto bene. Perché non funziona bene questo modo di dialogare? Grazie. Anche questo implica una risposta che non posso dare questa sera. Il problema è, mi sembra che abbia toccato il nucleo fondamentale del problema. Noi però rinunciamo a dire il problema non è risolvibile, bisogna, l'accenno che io ho fatto al razionalismo ellenico e che quindi il discorso deve vertere su qualche cosa che conduce alla contraddizione. Così si è sempre fatto, così quella famosa disputa di Emanuele II nel 1392, ricordata dal Papa, è esemplare di come deve essere condotto il discorso. Il mondo islamico non ha avuto alcune rivoluzioni che ha avuto il mondo occidentale. Mi ricollega a quello detto dal Monsignor Vescovo, che insomma è importante. Il Papa, quando parla di illuminismo, non dice che tutto è stato male nell'illuminismo, perché l'illuminismo ha inserito anche nella riflessione storica il metodo storico critico, che noi adesso accettiamo pienamente, anche, come diceva Monsignor Vescovo, nella esegesi del Nuovo e dell'Antico Testamento. c'è stato anche il grande apporto della fenomenologia. Noi non dobbiamo mai dimenticare che il Papa Giovanni Paolo II in qualche modo era ammirato e si sentiva discepolo di Edith Stein, che è stata la discepola prediletta di Husserl, e che quindi il metodo fenomenologico, che significa andare al nucleo delle cose togliendo tutti le nostre preconcetti che ci impediscono di arrivare al tipo ideale che in qualche modo è contenuto. Noi sappiamo che sempre all'inizio del Novecento c'è stata una storia delle religioni, la fenomenologia applicata alle religioni, che ci ha insegnato il rispetto per tutte le religioni. Io però aggiungo sempre, a patto che non si dica che tutte sono equipollenti, che tutte ci conducono al medesimo Dio Padre. C'è un dovere di ricercare la verità, che significa essere inquieti di fronte agli aspetti problematici della nostra fede. Il Papa, giustamente lei ha ricordato, è preoccupato della dittatura del relativismo. Noi viviamo in una, le affermazioni sue, tutto è cultura, quindi ciascuno ha le proprie opinioni, che se le tenga, e le opinioni sono equipollenti, invece c'è la ricerca della verità che ci trascende tutti quanti, che quindi abbiamo un dovere di una ricerca che sia continua e costante. Nei confronti dell'islamismo io reputo che la mancata rivoluzione dello storicismo di tipo illuministico, che insieme con qualche cosa preziosa però ha buttato anche via molti stracci diventati inutili, che quindi è stata una ventata in qualche modo benvenuta, perché la fede non può essere fatto di tradizione. Non si deve vivere sulla scorta di un patrimonio che hanno i nostri antenati in qualche modo messo insieme. Dobbiamo rivitalizzarlo. La fede deve tornare ad essere quella dei primi cristiani, che vivevano in un impero ostile, ma ce la mettevano tutto a trasformare le strutture dell'impero romano. Io credo, e la cosa curiosa, per riassumere, che il modo migliore, io sto perdendo la voce, perdonate, quindi non potrò più proseguire, e sarà quella di essere più propriamente e fondamentalmente cristiani, perché nel cristianesimo c'è anche una capacità di accoglienza che per esempio l'islamismo non ha. Non ci possiamo aspettare da questi signori che ci sia il venire incontro alle nostre attese, ma forse di fronte a autentici cristiani potrebbero ripensare certi atteggiamenti. Bene. Temo proprio. Sì. Se non ci sono altre domande, possiamo concludere qui il nostro incontro. Ringraziamo il professor Torresani per questa bella, diciamo, esposizione di un tema così forte, così mediatico, se vogliamo, anche non perché è trattato, diciamo, da tutti i media, ma perché appunto è di interesse comune, anche indipendentemente dal mezzo di comunicazione. Grazie mille per l'incontro, professore, grazie anche al presidente Bova per averci dato la sala e per averci ospitato, grazie al monsignor Vescovo per essere intervenuto con noi, è stato molto utile anche il suo intervento, grazie a tutti, arrivederci.